Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi, buongiorno a voi da Nicoletta, sono le 11:10. Voi avete un cellulare, uno smartphone? Quale dito usate per digitare i testi delle mail o per mandare i messaggi? Potete fare la prova adesso, mandatemi una mail a esserebenessere@radio24.it oppure un sms al 349-238-6666 e nel frattempo seguitemi. Gli smartphone, con le loro tastiere dalle misure ridotte per ovvi motivi di design e portabilità, inducono gli utenti a usare principalmente il pollice per digitare i testi delle email, con il risultato che il pollice può andare incontro a un eccessivo uso. Il pollice da BlackBerry o dito a scatto, come viene comunemente chiamato il disturbo, può interessare anche chi, pur non possedendo gli smartphone, utilizzi molto la funzione SMS dei telefoni cellulari. Le sollecitazioni ripetute sull'articolazione del pollice, in particolare tra il metacarpo e l'articolazione della prima falange, provocano un ingrossamento del tendine del muscolo flessore del pollice, che a causa dell'eccessivo lavoro si infiamma e si ingrossa. C'è una sola strada per prevenirlo: diminuire il numero di email scritte al giorno, consentendo all'articolazione interessata di riposare. Insomma, la storia insegna che non bisogna tirare troppo la corda. Posa un po' coi tendini, asciugati e riprendi. Oramai lo sai. Tiziano Ferro docet, intanto saluto il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Non tirare troppo la corda, e i tendini sono delle specie di corde che congiungono i muscoli alle ossa, perché sono delle strutture fibrose, resistenti, ma come abbiamo sentito per il pollice da BlackBerry, evidentemente soffrono le sollecitazioni eccessive. Certamente, quindi come giustamente ricordato nel servizio, bisognerebbe avere cura dei propri tendini, soprattutto dei tendini del proprio pollice, perché è molto utile il pollice nella nostra vita. Eh sì, perché sennò non riusciamo più ad afferrare le cose. E farlo riposare, cioè dargli la possibilità di adattarsi alle nuove sollecitazioni, mentre quando noi siamo troppo aggressivi non diamo il tempo ai tendini di riposare, quindi si infiammano. Tendini, ma noi oggi vogliamo occuparci anche di altre corde, che dei tendini sono un po' parenti, legamenti. I compiti naturalmente sono diversi, ma la struttura è simile, perché sono infatti di collagene. Esattamente, la componente fondamentale dei tendini e dei legamenti è collagene, tra l'altro un tipo di collagene simile, il collagene tipo 1, che è il collagene resistente, fibroso, sì, che ha una scarsa elasticità. Dottor Melegatti, corde, come le abbiamo chiamate impropriamente, ma oggi parliamo di tendini e legamenti, sono essenziali perché ci tengono insieme, no? Sono, certo, un po' come i fili che cucciono un abito. E ci fanno camminare. E ci fanno camminare. Noi però li osserviamo sempre sotto un punto di vista meccanico. In realtà sono dei veri e propri organi di senso. Con questa lettura vorrei presentarli nella puntata, certo, di oggi. È molto corretto ed è una chiave di lettura moderna, quella di considerare tendini e legamenti non dei semplici organi meccanici, delle strutture meccaniche che sono in grado di farci camminare, di farci muovere o di stabilizzare le nostre articolazioni, ma anche come dei veri e propri organi di senso, perché al loro interno esistono dei piccoli sensori, sì, che non fanno altro che registrare le situazioni di tensione di queste strutture e mandano dei messaggi al cervello, e il cervello, in base alla tensione registrata, è in grado a sua volta di mandare degli impulsi che permettono al nostro corpo di adattarsi alle varie situazioni. Facciamo un esempio. L'esempio è quello classico del camminare su una strada sconnessa. Se non avessimo questa sorta di servomeccanismo, noi probabilmente prenderemo una storta a ogni passo, e invece il nostro corpo è in grado di rilevare le tensioni dei nostri legamenti, soprattutto a livello della caviglia, mandare dei messaggi al cervello, e il cervello, attraverso una fine regolazione muscolare, è in grado di posizionare il nostro piede nel migliore dei modi ed evitare che noi possiamo prendere una storta. Dottor Melegatti, quindi l'importante, dobbiamo cercare di stressarli poco e mantenerli al meglio della loro funzione, proprio perché aiutano, sono fondamentali per il nostro benessere, per la nostra postura, per il nostro movimento. E quindi, certo, delle tensioni che noi avvertiamo in alcune zone del nostro corpo, mi viene in mente il collo, ma anche a livello delle gambe o dei piedi, sono, potrebbero essere segnali di tendine o legamenti che sono troppo sollecitati, non riescono più a fare a dovere il loro compito di organi di senso? Certamente sì, dobbiamo tenere presente che dobbiamo sollecitarli in realtà, perché loro, il loro compito è quello di essere sollecitati continuamente. I legamenti devono essere sollecitati perché devono tenere insieme le nostre articolazioni, e i tendini devono essere continuamente sollecitati perché ci permettono di trasmettere la forza dei muscoli alle ossa, e quindi ci permettono di camminare o di muoversi. Però è chiaro che queste sollecitazioni devono essere progressive, graduali. Se sono troppo aggressive, troppo veloci, i tendini e i legamenti si ribellano e danno segno di sé. Proviamo a capire come si lamentano, perché si lamentano in modo differente. Certamente. La situazione più evidente è l'infiammazione, quindi l'infiammazione sia per un tendine che per un legamento, che poi produce dolore. In realtà poi è il dolore la guida, quello che ci fa, il sintomo che ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Quindi aiutiamoli a lavorare bene. Respirate verso il centro e rilasciate tutte le energie espirando. Bene, un altro respiro profondo. Dove hai studiato in precedenza? No, questa è la mia prima lezione. Stai iniziando alla grande. Raddrizza i fianchi, stendi le braccia. Mi sento molto bene. Mm-hmm. Già, sto liberando i tuoi chakra, senti l'energia che scorre. La sento, dico davvero. Mi sento alla grande. Ah, anch'io mi sento alla grande, ci sentiamo alla grande insieme. Namaste. Namaste. Namaste a Tite Togni, insegnante certificata Iyengar, che corre anche, pensate, 23 ore consecutive intorno al Monte Bianco, conservando un equilibrio proprio grazie allo yoga. Ciao Tite, benvenuta. Ciao a tutti. Sì, senti l'energia che corre e appunto corri con questa energia. Assolutamente. Tite, yoga e corsa sono due discipline che sembrano apparentemente lontane, ma come tu insegni hanno molti tratti in comune. Principale tratto in comune, me l'ha consigliato, me l'ha detto, mi ha illuminato il mio maestro un giorno, che diceva: gli asana e le posizioni sono in fondo meditazione in azione, e chi corre sa bene che sente esattamente questo dopo un po' che corre, sente di meditare in azione. Per e quindi lo asana yoga, e corsa. Lo yoga allena. Lo yoga allena la resistenza. Sì, lo yoga allena questa cosa che va molto ormai di moda, questa parolina d'oro, l'endurance, la resistenza. In fondo la resistenza è la capacità di minimizzare lo sforzo nell'azione, e lo yoga, le posizioni sul tappetino, sono un grande gioco che ti allenano continuamente a richiamare il tuo respiro nello sforzo, a richiamare la calma nello sforzo, finché lo sforzo diventa, come dice il mio maestro, effortless, senza sforzo. Concretamente, Tite, quali sono i vantaggi della pratica abbinata, congiunta di yoga e corsa? Che cosa aggiunge lo yoga al runner? Lo e viceversa. Al runner aggiunge la consapevolezza. Il fine ultimo dello yoga è sempre lì, la consapevolezza. Ma cosa vuol dire per un runner? Vuol dire che nello sforzo, nella corsa, nell'attenzione sempre maggiore, a correre sempre più veloce, sempre più a lungo, il runner non deve dimenticare di ascoltarsi dentro. E lo yoga è un laboratorio in cui tu alleni la tua sensibilità dal corpo più esterno al corpo più interno, fino ai legamenti e ai tendini, a sentire prima che facciano male. Quindi quali sono le posizioni più indicate per un runner? Le posizioni più indicate dipende, diciamo, la posizione, se mi chiedi una posizione, hai solo 5 minuti, una posizione prima di correre, cosa miro a fare? Miro a prevenire gli infortuni e miro poi a correre nel migliore dei modi possibile, con il gesto più naturale, più completo possibile. Quindi miro a allungare e aprire, a potenziare allo stesso tempo il corpo, a ossigenarlo. Beh, allora ti dico, prova l'albero. L'albero è una posizione di equilibrio, in equilibrio su un piede, l'altro piede appoggiato alla coscia col ginocchio piegato. Sì. E ci provi a stare in equilibrio e scopri che non puoi tenerla se non respiri normalmente. E in più scopri se le tue anche sono per caso disassate, disallineate quella mattina, quel giorno, e la consapevolezza anche di un problema che hai in quel momento, nel presente, è una grandissimo jolly per prevenire gli infortuni. Dottor Melegatti, che cosa le insegna l'esperienza di Tite? Ma intanto è veramente affascinante sentire parlare esperti di yoga, delle possibilità che lo yoga dà agli sportivi che praticano altre discipline. Mi piace il discorso fatto del imparare ad ascoltare il proprio corpo, i ritmi del proprio corpo, e imparare soprattutto conoscere le posizioni, e quindi mi rifaccio dal mio punto di vista a un discorso di propriocettività, cioè di capacità di capire dove in quel momento ho posizionato i miei arti, per esempio. E poi io vedo lo yoga come uno straordinario mezzo effettivamente di prevenzione e di preparazione a una fase più dinamica che è la corsa, e quindi io auspicherei non solo un esercizio naturalmente, ma più esercizi di yoga, perché più muscoli, tendini e legamenti noi stiriamo e prepariamo, e maggiore è la nostra capacità di prevenire eventuali infortuni. Mi viene in mente una cosa forse un po' abbastanza banale, ma che è quell'insieme di posizioni del saluto al sole. Credo che quella sia una situazione veramente completa che ci permette di avere una elasticità, quindi una preparazione straordinaria e veramente completa a un'azione così impegnativa come è la corsa. Anche per i nostri tendini e per i nostri legamenti. Soprattutto in funzione di quello. Tra l'altro, Tite, la cura dell'allineamento dello yoga ha proprio degli effetti sul runner. Scompaiono alcuni piccoli disturbi che sono tipici di chi corre, pensa al mal di schiena, ma non solo. Sì, non devo dirlo io, cioè basta provare una sola sessione di yoga e la cosa che tutti, che io riscontro detta da tutti, è che prima di tutto il mal di schiena va via. Perché la schiena è fatta per muoversi, per fare i saluti al sole, per correre, mai per stare ferma. Di conseguenza questi movimenti così armonici in vinyasa, in progressione, fanno respirare la colonna vertebrale. E quindi qui si previene, però addirittura si può anche curare. Ecco, tu hai avuto degli effetti terapeutici praticando yoga, hai curato un'infiammazione al ginocchio, vero? Sì, personalmente devo dire, su questo stiamo studiando in parecchi, perché ho destato molta curiosità. Personalmente con lo yoga ho avuto anche effetti terapeutici. Ho curato un'infiammazione al ginocchio in un mese con posizioni capovolte, per lo più. Oltre che ovviamente il con ghiaccio, eccetera, però quello che sono riuscita a fare con il lavoro dello yoga, con le posizioni capovolte, è che sono riuscita a sostenere tutti gli allenamenti, giorno sì e giorno no, delle tabelle per la recente maratona di Mumbai che ho sostenuto, e soprattutto dopo un mese, maratona fatta, l'infiammazione è svanita nel nulla. Infiammazione che era testata. Dottor Melegatti, com'è possibile? Quindi noi possiamo dare questo consiglio. A me piace sempre partire dall'esperienza dei miei esperti, da quello che suggeriscono i miei esperti, per dare un consiglio anche ai nostri ascoltatori da casa. Il consiglio è runner. So che ci sentono molti runner, poi noi abbiamo anche un runner, il nostro Cruciani. Certo. Praticate yoga, perché è l'allungamento che previene eventuali strappi, dolori, e abbinate queste due discipline che sembrano così diverse, che hanno invece in comune la respirazione, che è la cosa più naturale, certo, in fondo come la corsa, che possiamo provare. Certo, sono d'accordo. Il fatto che lo yoga non sia ancora entrato di diritto nelle nelle discipline anche terapeutiche, diciamo, della nostra medicina tradizionale, io credo che sia solamente una questione di tempo. Non, in linea teorica non c'è nessuna controindicazione naturalmente ad effettuare lo yoga e anche a individuare lo yoga come una metodica terapeutica. Si tratta semplicemente di dare tempo allo yoga e a persone che vogliono studiare questi effetti terapeutici di fare studi scientificamente validi, quindi con una valenza scientifica importante. Dopodiché io credo che sia veramente solo questione di tempo. Tite, a proposito di tempo, posso dare una bella notizia di cosa sta succedendo vicino a noi, cioè in Inghilterra? Sì. Mi pare che siano 10 classi di yoga, sono assolutamente ormai per legge mutuabili. Bene, questa bene. È una buona notizia. Bene, bene, questo mi fa piacere. Senti Tite, a proposito di tempo, quest'anno è stato un anno in crescendo per te, Maratona di Venezia, poi quella di la Vare d'Ultra Trail, insomma, dai tuoi risultati, dai tuoi numeri è chiaro che il tuo jolly sta nel recupero. Sta anche sì, nel recupero. Cioè nel fermarmi a respirare, appena posso e quando ne sento il bisogno. Effettivamente è stato così, rest is training, adesso anche questa frase va molto di moda, però magari non ci si rende conto bene di cosa vuol dire. Lo yoga è proprio lo considero una cassetta degli attrezzi per potersi rilassare anche in pochi istanti, in ogni singola cellula. Lo yoga è, dice mio maestro, la chiave d'oro che apre la porta alla pace, alla tranquillità. Senti, Tite, ci abbiamo aperto con una posizione, la posizione dell'albero per chi deve iniziare a correre. Vogliamo anche suggerire, anzi tu, una posizione per il dopo corsa? Certo. La posizione più rigenerante di tutte, che vedo che piace tantissimo e non c'è bisogno di chiedermi quanto tempo tenerla, è la posizione Viparita Karani. Parlo così perché lo yoga è in sanscrito, quindi sì. per correttezza. Però... si chiama così perché è posizione invertita, molto semplice, da supini, gambe a squadra, contro un muro, allungarle e respirarci sopra. Semplice come bere un bicchiere d'acqua, semplice come respirare, l'importante è praticarla. Sì, l'importante veramente è praticare, magari poco, ma spesso. D'altra parte io dico sempre, quando la gente, è un classico, mi risponde ma io non ho tempo, devo correre, devo dormire, devo mangiare, devo seguire, e dico però il tempo per lavarti i denti lo trovi sempre? E allora trovi anche il tempo per Viparita Karani dopo la corsa. Grazie a voi. A Tite Davanti. Toni, e noi andiamo a Stefano che ci chiama da Milano. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, grazie. La mia domanda è la seguente. Io pratico pallacanestro dall'età di 12-13 anni e ne ho 42. Periodicamente avverso problemi al tendine d'Achille, uno dei due, il destro. Sì. E, siccome ho visto altri colleghi, altri amici che hanno avuto la lacerazione del tendine d'Achille, vorrei sapere come fare a prevenirlo, come fare piuttosto a controllare, a fare delle diagnosi preventive ed evitare appunto di arrivare a quella. Senta, ma il suo tendine d'Achille si lamenta o è una sua premura? Certo, si lamenta periodicamente, questo è un periodo in cui non succede, ma qualche mese fa succedeva, dava fastidio. Cioè, come cosa dice il tendine? Cosa dice? Sì, cosa fa? Semplicemente fa male, duole dopo circa un'ora di allenamenti. Essere e benessere. Eccoci qui, siamo tornati insieme qui in studio con me il dottor Melegatti. Abbiamo parlato di yoga e di corsa, per due discipline che si bilanciano per aiutarci a prendere consapevolezza del nostro respiro, del nostro corpo e anche di strutture come i tendini e i legamenti, che spesso consideriamo solo come strutture con un'azione meccanica, ma che oggi vogliamo provare a iniziare a considerare come veri e propri organi di senso. Gianluigi che ci chiama dalla provincia di Bologna. Buongiorno Gianluigi. Buongiorno. Io volevo chiedere relativamente allo yoga se poteva dare giovamento anche allo sport del golf, visto che è uno sport basato prevalentemente sull'equilibrio. per cui volevo capire se poteva portare qualche beneficio. Grazie Gianluigi. Dottor Melegatti. Ma direi sicuramente sì, perché come abbiamo visto lo yoga è fatto di posizioni e di esercizi che gradualmente, in maniera molto dolce, allungano le nostre strutture, per cui per il golf direi che è veramente indicato, proprio per preparare all'azione, soprattutto al meccanismo di torsione del tronco, che viene molto sollecitato nel golf. Dottor Melegatti, noi abbiamo ancora una risposta da dare relativa al tendine d'Achille, ma Gianluigi ci aspettava da tempo e allora ho dovuto dargli la parola, con piacere naturalmente, e ritorniamo a questo tendine d'Achille, perché dà tutti questi problemi, e poi solo agli sportivi o anche a chi è più sedentario? No, in realtà il tendine d'Achille è veramente una struttura che può dare problemi a chiunque. Agli sportivi per un problema di sovraccarico, come abbiamo detto inizialmente, vale a dire quando esiste una certa predisposizione ad avere l'infiammazione al tendine d'Achille, e questo potrebbe dipendere da una mancanza di flessibilità della muscolatura delle arti inferiori, a un appoggio plantare inadeguato, e quindi questi sono tutte situazioni che vanno valutate, per cui il mio consiglio a Stefano è semplice: fare una sorta di check, di verificare con una persona esperta in questo com'è la situazione biomeccanica della sua apparato locomotore, quindi come appoggia il piede, quali sono le tensioni. Non dimentichiamo che il tendine d'Achille può infiammarsi anche in situazioni di debolezza del muscolo del tricipite surale, per cui fare una valutazione anche della forza muscolare, non solo della elasticità, e quindi in base a quello che poi si ottiene con questa valutazione dare dei consigli adeguati. Dottor Melegatti, ma prima che siano dolenti i tendini e legamenti, noi possiamo fare una sorta di check della nostra flessibilità? Cioè, ci sono degli esercizi che possiamo fare senza dover necessariamente rivolgersi ad una persona esperta, che poi è il fisiatra, no? Certo, il fisiatra, certamente. Ecco, possiamo capire se ad esempio i nostri arti inferiori sono di quella corretta tonicità che permette a muscoli e legamenti tendini e legamenti di lavorare bene, fare il loro lavoro di organi di senso? Sì, è più facile, più che verificare la tonicità dei muscoli, perché questo è un aspetto soggettivo e non è sempre facile da valutare oggettivamente. Possiamo per esempio invece con più facilità valutare la flessibilità dei nostri muscoli, e quindi esistono degli esercizi, dei test che ci permettono di valutare quanto flessibili siamo. Ciascuno di noi ha la sua flessibilità e è chiaro che dobbiamo conoscerci, e a maggior ragione vale il consiglio che ho dato prima, cioè farsi valutare per capire come effettivamente siamo e attraverso quali esercizi e quali test verificare costantemente la nostra flessibilità. Andiamo a Massimo, che ci chiama da Milano. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Buongiorno. Lei è abbastanza flessibile nel corpo e nella mente? Nella mente soprattutto. Mi dica. Io sono un ciclista, pratico la mountain bike, però sono particolarmente rigido per quanto riguarda la mia schiena, nel senso con difficoltà raggiungo con la punta delle dita delle mani la punta dei piedi se cerco di flettermi a gambe distese. Per cui, interessato allo yoga, ho sempre trovato questo mio limite, diciamo, fisiologico in quello che potrebbe essere la pratica dello yoga. Mi chiedo, con questo limite mi posso avvicinare allo yoga, oppure, visto quelle che sono le posizioni che lo yoga normalmente predilige, questo potrebbe diventare un limite nel praticarlo? Grazie Massimo. No, direi che non dottor vedo... Melegatti, poi parlando di bici, lei infatti, sale subito in sella, perché lei è un appassionato. Sì, non proprio di mountain bike, però insomma le due ruote apprezzo anche chi fa mountain bike. E per quanto riguarda quello detto da Massimo, intanto gli voglio dire che lo yoga io lo considero una buona metodica, una buona pratica anche per la bicicletta, per migliorare la flessibilità. È chiaro che c'è una gradualità nell'approcciarsi allo yoga, e quindi lui sarà ben consigliato e quindi riuscirà a sfruttare i benefici dello yoga in maniera molto graduale. Non si deve preoccupare del fatto che non sia mai riuscito ad attoccarsi la punta dei piedi con le mani, perché come dicevo prima ciascuno ha la propria flessibilità. L'importante è cercare di guadagnare qualche cosa senza stressare eccessivamente. Quindi no, io invece pensavo che fosse una specie di cartina di tornasole, chi si tocca la punta del piede è salvo, no, no, perché io sono capace, per questo mi rincuoro. Certamente un vantaggio, però non è poi così. Senta, dottor Melegatti, noi abbiamo parlato del tendine d'Achille, però io vorrei parlare di tendini ma anche di legamenti che certo. possono dare un po' di problemi e spendere due parole anche per tendini e legamenti che vengono usurati anche nelle persone che non necessariamente sono molto sportive. Certamente. Perché, ecco, quindi state attenti, stiamo attenti anche noi. Noi persone normali, naturalmente. Noi persone che non corriamo. Certo, il sovraccarico tendine o legamentoso avviene anche nelle attività quotidiane, nelle attività lavorative, nel utilizzare un mouse oppure nel fare un lavoro pesante, ripetitivo. Il punto è quello, sono i microtraumi ripetuti da piccoli gesti quotidiani che possono essere il portare le 6 bottiglie d'acqua piuttosto che, come dicevo, utilizzare il mouse o il computer, oppure utilizzare la spalla per dei lavori di bricolage oppure lavori di carpenteria o altro. E quindi il tendine poi si usura giorno per giorno e se non gli si dà la possibilità di riposare, questo poi dà dei problemi. Perché riposare intende, noi abbiamo sottolineato l'importanza del riposo, che anche per chi, per lo sportivo, va considerato parte dell'allenamento. Certo. Ma il riposo è necessario anche a tendini e legamenti, perché queste strutture si autoriparano, dottor Melegatti. Certamente, hanno bisogno di tempi biologici per trovare un adattamento alle continue sollecitazioni. Se le continue sollecitazioni sono più veloci e più rapide e così incalzanti da non permettere al tendine di trovare questo adattamento biologico, il tendine a un certo punto non ce la fa più e si usura. Se abbiamo dolore, stop. Fermiamoci. Certo. Perché loro poi si danno da fare, ma non sempre riescono, perché noi se li stressiamo ulteriormente loro sono lì che si autoriparano e devono lavorare, per cui interrompono questo lavoro certo. di autoriparazione per mettersi di nuovo a nostra disposizione. Capita un po' quello che capita a noi donne, certo, che voi certo. ci stressate continuamente con richieste eccetera. Dottor Melegatti, li abbiamo presentati in coppia perché sì. in effetti sono uniti nella buona e nella cattiva sorte, certo, spesso certo. si aiutano spesso, dobbiamo dire tra l'altro che sono delle strutture un po' svantaggiate perché non hanno una irrorazione sanguigna così importante come altre strutture come i muscoli, e quindi questa scarsa irrorazione sanguigna non permette un recupero metabolico, non permette appunto dei tempi di guarigione troppo rapidi. Però l'interscambiabilità è un dato di fatto. Infatti noi possiamo utilizzare per esempio un tendine per ricostruire un legamento. Per esempio nella ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è tristemente noto a molti sportivi, noi utilizziamo una porzione di tendine del corpo dello stesso sì. paziente e lo posizioniamo dove era il legamento che si è rotto. E questo tendine nel tempo, nel nostro corpo, inizia un processo che noi chiamiamo ligamentizzazione, quindi si trasforma nel tempo e diventa un legamento. Perché, da tendine come si dice, a legamento. Chi si somiglia si piglia. Esattamente. Senta, dottor Melegatti, ma ci sono delle situazioni in cui questo processo di autoriparazione non avviene e per cui si possono fare dei trattamenti. Mm-hmm. Dalle onde d'urto, certo. delle terapie fisiche, naturalmente oltre al riposo che è assolutamente fondamentale. Certo. Sì, ci sono l'approccio al trattamento dei problemi legamentosi o tendine dipende molto dal tipo di struttura lesionata, e quindi l'approccio può essere o conservativo attraverso dei mezzi fisici, quindi trattamenti come onde d'urto, come ha ricordato lei, oppure trattamenti laser o altro. E trattamenti incentrati sul recupero della forza e dell'elasticità della struttura, oppure trattamenti chirurgici, naturalmente, per sostituire o per riparare le strutture danneggiate gravemente. Essere e benessere. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì,